peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Benvenuti a questo Salt Peanuts, che andrà a presentare tre nuove produzioni discografiche, ma lo farà anche attraverso le voci dei protagonisti. Sono il primo un disco di blues con la blues singer Nicoletta Zuccheri, poi avremo un'altra singer assai conosciuta, la Cristina Zavalloni, che presenterà La Donna di Vetro, e per chiudere invece andremo a un pianista, Giovanni Guidi, che ci porterà all'interno del suo ultimo lavoro, che è La città dei sogni rotti, The City of Broken Dreams. Dunque, subito cominciamo col blues per introdurci e per scaldare un po' i motori. Mandiamo il primo album che apre questo album, questo disco, i Beat of Blues, appunto firmato Nicoletta Zuccheri, ed è Green Revolution. Cominciamo allora a chiacchierare con Nicoletta Zuccheri di questo suo ultimo lavoro, A Beat of Blues, di cui abbiamo ascoltato il brano di apertura, Green Revolution, e chiediamo alla stessa Nicoletta come si è arrivato a produrre questo disco nella sua evoluzione canora, che parte appunto dalle esperienze rock giovanili, dalle Jenny Joplin per arrivare poi fino alle grandi Bessie Smith. Avevo desiderio di fissare, proprio di registrare queste composizioni, appunto nove sono mie composizioni, e che mi accompagnavano da qualche anno e avevano, diciamo, anche in maniera differente, però tutte una radice nel blues e nel rhythm and blues, perché ascolto questo genere fin da quando sono ragazzina, quando ero ragazzina, e uno se lo porta dentro, secondo me, no? Nella parte ritmica, nella parte espressiva soprattutto, e veramente mi era venuta l'urgenza, il desiderio di fissare questi momenti, queste storie, perché poi raccontano, sono proprio storie che raccontano di donne. I brani raccontano di donne. Ascoltando il tuo approccio al blues, appunto vengono in mente anche l'uso della voce delle grandi madri degli anni 20 del blues, la Bessie Smith, la Marani. Ecco, tu parli di ragazzina, ma tu sei arrivata al blues tramite Otis Redding, Aretha Franklin, oppure se ti sei abbeverata agli esordi della musica jazz? No, giusta domanda. In realtà io sono arrivata ad ascoltare il blues tramite il rock. E, perché ero molto curiosa, sono sempre stata molto curiosa, e sapevo che gruppi come i Led Zeppelin, per esempio, suonavano il blues oltre al rock. Sentivo che anche nelle recensioni dei dischi, che allora comunque erano solo in inglese, ma io fortunatamente già a 15-16 anni lo leggevo, avevo letto che le ispirazioni cantautrici, le donne, le cantanti e spiritrici di Janis Joplin erano delle blues mamas. Essendo una ragazzina molto curiosa, sono andata alla fonte, per cui è stato un passaggio abbastanza, come di naturale, diciamo, sì, e per me andare alla ricerca di questi pochi dischi all'epoca che si trovavano sulle blues mamas. E il primo che sono riuscita ad ascoltare era appunto un disco di Ma Rainey, che suonava insieme al marito e portava in giro le composizioni di entrambi girovagando l'America. Poi da lì, vabbè, un ascolto tira l'altro, insomma, no? Per cui ho ascoltato anche Bessie Smith e poi dopo sono passata anche ad altre cantanti del rhythm and blues, che sono state veramente tantissime, e poi dopo si ramifica l'interesse, si ascolta sempre un po' di più, sempre anche generi correlati. Quindi a ritroso un genere urban blues e non country blues con i Led Belly? No, ho ascoltato anche quello, ho ascoltato anche rappresentanti, diciamo, di altri appunto generi ancora più arcaici, ho ascoltato anche Blenheim Jefferson, li ho ascoltati. Certo è che quello che tu appunto riconoscevi magari come più come un'impronta espressiva vocale, sicuramente i miei esempi sono state le blues mamas del periodo. Poi anche io avevo le mie preferenze, per esempio non so, Ida Cox aveva una voce troppo nasale per il mio gusto, e Bessie Smith invece, ancora prima di sapere chi era e la grandezza di questa cantante, mi aveva veramente impressionato. Champagne and wine, then I began to fall so low. Didn't have any more friends nor a place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I gotta hold on to it. Tell them Eagles, friends, nobody knows you. Surely have any if I ever get on my feet again. Then I'll meet my long lost friend. Tell him money's strange without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down. Thank you. Nicoletta Zuccheri, delle grandi cantanti Ida Cox, Bessie Smith, e quindi abbiamo messo sempre da questo Beat of Blues, ultimo lavoro della Zuccheri, questo Nabba di Nose, You When Are Down and Out, che è un classicissimo di della Cox. Ma la domanda naturalmente ovvia, inevitabile per una cantante bianca italiana che canta il blues, se l'approccio a questa musica è un approccio culturale, mediato intellettualmente, è un approccio invece istintivo? No, il mio è un rapporto più di cuore. Cioè, io per tanto tempo ho pensato che di non poter cantare questi generi. Cioè, me li cantavo perché mi piacevano, però dentro di me avevo sempre la sensazione non è la mia tradizione, forse non sono all'altezza, forse la gente non capisce perché una ragazzina bianca voglia cantare il blues quando c'è, voglio dire, una schiera di musicisti molto più, come dire, molto più vicini e molto più accreditati per poter rappresentare quel genere. Poi a un certo punto, crescendo, tu ti rendi conto che il blues, in quanto sentimento espresso del momento o in quanto appunto denuncia di una situazione anche drammatica, ma non solo, cioè voglio dire, ti accomuna come uomo e come donna, ti accomuna come esseri umani, accomuna gli esseri umani. E allora, se lo vediamo da quel punto di vista lì, sì, è di cuore, non è sicuramente una cosa intellettuale la mia, è proprio una vicinanza che man mano che crescevo sentivo in termini sentimentali. Cioè, io mi sentivo molto più vicina in termini espressivi e musicali a quel genere piuttosto che a quello che magari si è sviluppato commercialmente in Italia. PhD and years spent on books. You didn't get any jobs so far. Well, there ain't a job to find. Better make up your mind. You ain't got nothing here to lose. Please stand up for your rights. I'll be okay with what you choose. Since the day that you were born, just one thing I really care about, to do my best to help you find your way. I can't stand saying your turn for calls that never come. No, it's a make a living now of a fake smile. Time to think about your future. Tell me, baby, what you love to do. Don't forget about your wishes. Give them a try to come true. I'll go and buy you a ticket. Destination, anywhere you can find what you sweated for. So get away from it all. Since you were a little girl, yes, you are really cared for. I share my ignorance with life. All right, lady, my way. Now it's your turn, so don't give up and go for what you really want. Don't forget about your wishes. Gotta get your way. Gotta wait for this ball. Da una cantante a un'altra, la più che conosciuta Cristina Zavalloni, una voce che naturalmente si è stagliata nell'ambiente jazz, ma non solo, visto le sue frequentazioni anche su altri spartiti, penso al lavoro sui chansonnier francesi come Aznavour, penso al suo versante creativo sulle reinterpretazioni di Luciano Baerio come le folk song, quindi una cantante tutto tondo che però in questo ultimo suo lavoro, Donna di Cristallo, etichetta Igea, è tornata su una sorta, sui suoi passi del jazz. Io vengo dal jazz, come hai ben ricordato, per cui anche se molta della mia attività è nell'ambito della musica classica, per me è sempre come tornare a casa, fare un disco di jazz, mettere su un gruppo nuovo, in questo caso la Radar Band è una formazione che non conoscevo, che mi ha entusiasmato in contrario, perché sono tutti musicisti eccezionali, jazzisti italiani della nuova generazione, quindi con un approccio anche alla musica totalmente diverso, anche già rispetto a me, anche se hanno pochi anni meno di me. Quindi rappresenta per me il momento in cui vado al parco giochi, cioè mi diverto, mi sfogo, mi libero, la mia attività jazzistica è sempre stata questo per me, cioè mantenere un rapporto veramente non mediato, quindi privo di qualunque spartito, tra me e la musica. E dall'esecuzione anche la scrittura, il salto? No, sono due modalità diverse, l'esecuzione è la performance, stare sul palco è tutt'altra faccenda, insomma, è essere davanti, essere visibili e dovere anche avere voglia in qualche modo di intrattenere, di comunicare in modo empatico con chi è davanti. La composizione è un rito molto più intimo, più solitario, più privo di tutti i luccichi della performance, quindi è un contraltare prezioso. Tu hai detto una cosa che mi ha colpito, perché prima hai affermato che con la Radar Band, anche se sono musicisti più giovani, ma non è che certo tu sei vecchio, pochi anni meno, sì. È un'altra esperienza, sì. Quindi è così veloce il metabolismo musicale in questo momento? Incredibilmente veloce. È uno dei, cioè, il famoso problema che in Italia si è considerati giovani a 47 anni è veramente drammatico, perché le generazioni più giovani, già di pochi anni, ma figuriamoci i ventenni, viaggiano veramente a un'altra velocità rispetto a noi. Noi siamo una zona di passaggio, ma loro hanno già completamente metabolizzato il fatto di far parte di una cultura che si nutre della famosa YouTube Generation, quindi che ha tutto a portata di click immediato, con i limiti e i vantaggi di questa faccenda, ma mentre io mi sento di essere veramente lì, questo mezzo ne sono attratta, ma un po' anche lo temo e non sono sempre in grado di trarne il meglio, loro l'hanno completamente sintetizzato e quindi sono più sereni rispetto all'epoca che vivono. E hanno in sé il germe di questo meticciato culturale che ci spaventa tanto e che, per esempio, tutta la vita mi sono sentita considerare una versatile. Loro non manco non più lo considerano. No, ed è questa la cosa che mi fa sognare, perché io ho sempre cercato di, cioè dentro di me mi sono sempre detta, ma secondo me non è una cosa speciale, è veramente qualcosa di molto storicizzato, però quando sei da solo rischi sempre di dire, ma forse sono io che mi vado, no? Mi sto facendo un viaggio, invece essere a confronto con, in questo caso, 8 persone che vivono serenamente questa condizione, mi ha dato molto conforto, li vogliamo menzionare, lo farei con grande piacere. Allora, il responsabile di tutto il lavoro che mi ha proposto di fare questo disco è Cristiano Arcelli, che è il sassofonista del gruppo, ma è anche un po' il leader di questa band, che già esisteva quando io ho fatto il disco, è l'arrangiatore, è un po' il coordinatore di tutto quanto. I musicisti del gruppo sono, allora, la tromba Fulvio Sigurtà, mostro, ma se ne stanno accorgendo tutti, non è che mi senta originale in questo. che naturalmente vive a Londra, no? Tra fughe di cervelli, è tutto vero. Ma di questo parliamo dopo. Quando vuoi. Poi c'è Massimo Morganti al trombone, che è un altro musicista eccezionale, poi insegna qui a Bologna al Conservatorio, ha una delle big band più belle che ci siano in Italia, è veramente un musicista molto defilato di sostanza. Giacomo Riggi, che è giovanissimo, livornese, è pieno di entusiasmo ed è un po' la mascotte, perché è uno dei più giovani del gruppo. Michele Francesconi, pianoforte, navigatissimo. Daniele Mencarelli, che è un fuoriclasse al basso elettrico, che si alterna tra il pop e il jazz. Quando la smetterà io gli farò un monumento, perché uno così deve dedicarsi al jazz e basta per me, ma è una mia illazione. Alessandro Paternese alla batteria, altro rastro nascente. Enrico Pulcinella alle percussioni. Les observateurs de la société, de vous les nouvelles avec voracité. Ravis les ennuis, relance et renie, des automates qui se répètent à l'infini. Les observateurs de la société, de voir les Assaggio di questo album La donna di cristallo della Cristina Zavalloni con proprio il brano d'apertura L'Observateur. Ma naturalmente a una cantante che ha avuto un percorso anche così complesso e composito di esperienze artistiche dal jazz e non jazz, la domanda era inevitabile: che cos'è il jazz? È un linguaggio, è il linguaggio che io ho imparato per primo, con cui mi sono come se fosse la mia lingua madre. È una lingua che si parla. Linguaggio musicale che ha delle caratteristiche che a me entusiasmano, nel senso che è un luogo di, per sua natura, molto ibrido, capace di riassumere culture, è nato così del resto, è nato dal meticciato, culture differenti, quindi è capace di rinnovarsi proprio endemicamente per come è fatto. In questo senso, quando sento dire il jazz è morto, sorrido, cioè al limite può morire un dialetto, no? Non so come dire, una branca precisa, uno stile, non so, il jazz, free cool jazz degli anni 60 non si fa più, va bene, quello è un discorso, perché appunto i tempi cambiano e gli stimoli vengono accolti. Però è un linguaggio che non può morire, a mio avviso. E quando interpreti, che so, gli standard o le cose con pugliese al pianoforte, sono felice, felice quando sono pugliese. Ma è la stessa musica con declinazioni diverse oppure sono proprio... Sì. Cioè, la musica di base è una, a mio avviso, che si può, come dire, la comunicazione è una, no? È un grande linguaggio per comunicare la musica. Poi ci sono tante lingue diverse che si possono parlare, il jazz è una di queste, ma quando si fa uno standard, un brano originale, cioè è proprio una modalità, è un modo di porsi, è un approccio armonico, un approccio ritmico, anche una morbidezza che poi sfocia nell'improvvisazione, ma insomma una libertà di reinterpretazione del segno scritto, quando è scritto e quando non è direttamente tradizione orale. E questo linguaggio, quando affronti per esempio canzoni francesi, ti serve oppure... È lo stesso. Sì, perché è il modo in cui io parlo, per cui anche se canto Aznavour, penso che ti riferisca... A quello, perché con quel quartetto, con Stefano De Bonis, Antonio Borghini e Cristiano Calcagnile, abbiamo per anni suonato con questa formazione, mi ha fatto un disco solidago sulla musica di Aznavour. In quel caso gli arrangiamenti li avevo fatti io, quindi con quell'approccio che è... Io poi scrivo molto, nel senso che mi piace anche strutturarla la musica. Qui si entra molto in una cosa molto specifica che magari può annoiare i nostri ascoltatori. No, perché il jazz nasce come una musica orale, di trasmissione orale, quindi non si scrive nulla. E poi, appunto, però, una delle evoluzioni, si evolve, come abbiamo detto. Io mi rendo conto di fare parte di una generazione di musicisti che sento però molto, molto ampia come famiglia, più modern jazz in qualche senso, che tende a scrivere, tende ad arrangiare, tende a codificare molto. E questo è visto anche un po'... mi ricordo quando suonavo con basse sfere, per esempio, quindi con i miei maestri, perché per me loro sono stati i maestri da cui mi sono un po' ispirata. Veniva visto come una qualcosa di blasfemo questo mio atteggiamento. Fissare. In realtà credo che sia propria appunto delle generazioni che più... Cioè, se tu vedi i dischi di Alessandro Paternesi, che ha fatto un disco bellissimo, il quartetto è tutto super scritto. Cioè loro tendono a scrivere ancora di più. Cristiano Arcelli, che ha scritto gli arrangiamenti di questo disco, addirittura aveva scritto così tanto che in prova sono stata io paradossalmente ad avanzare il suggerimento che forse bisognasse lasciare più respiro alla musica. Sì, questa è una delle tendenze possibili del jazz più moderno. e la noce di ciò sa, in segreto che nadie me veia, né io mirava cosa si nutra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Sul mio petto fiorito, che intanto per lui solo si serbava, lì restò addormentato, ed io lo evitavo, e il ventaglio di cenere mi rinzanava. Rimasi nelle pleiadi, il volto reclinato sull'amato, cessò tutto e mi abbandonai, lasciando la mia pena in mezzo ai gigli dimenticata. Nella notte felice in segreto, che nessuno vedeva, né io guardavo cosa senza altra voce e guida, se non quella che nel cuore mi ardeva. E questa mi guidava, là dove mi aspettavo, colui che ben sapevo, nel luogo in cui nessuno si mostrava. Questo era Matela, sempre tratto dall'album di Cristina Zavalloni, l'album è La donna di cristallo, ma continuando a chiacchierare con Cristina ci siamo domandati il perché di questo eterno postmoderno nella creatività occidentale e se i palcoscenici si spostino magari altrove, e lei ci ha risposto così. Io non ci vedo niente di scabroso, ci vuole la consapevolezza, perché è vero che in questo momento l'Europa, il pensiero occidentale, la musica occidentale europea, cioè l'Europa è un continente vecchio in questo momento, lo è storicamente, economicamente, l'età dei suoi abitanti, l'energia degli abitanti, la musica degli abitanti, cioè abbiamo i cicli, i corsi e i ricorsi della storia fanno sì che noi in questo momento siamo in un ricorso, siamo in un downbeat, perché la nostra grande epoca l'abbiamo vissuta per centinaia e centinaia di anni, ora finalmente ci sono altre zone del mondo che urlano, che richiamano l'attenzione, dicono guardate che la storia sta passando di qua. Io ero in Colombia da poco, in Sud America, in questo momento è un continente che sta gridando la propria voglia di essere alla ribalta, e lo fa a livello economico con delle proposte osé, che però sono forse da guardare con un po' meno supponenza. Lo fa nella musica, lo fa nell'età della propria popolazione, che è molto più giovane ed è piena di vitalità, ma così anche, inutile che lo dica io, gli economisti lo dicono ogni pomeriggio, la Cina, l'India, il sud-est asiatico, cioè in questo momento qui c'è un po' di stanca, non so, c'è cioè una risacca, anche nei linguaggi musicali, sì, non stiamo inventando nulla in questo momento, stiamo cercando di uscire da un impasse osando in varie direzioni. Però i musicisti lo patiscono molto questo, difatti sì, quanti di noi, quanti jazzisti in questo momento si stanno rivolgendo a, per esempio, la musica brasiliana. Perché? Perché quella è una musica che è direttamente in collegamento con le proprie radici popolari. Thank you. dalla voce della Cristina Zavalloni passiamo al terzo album che vogliamo presentare. È l'ultimo lavoro di un giovane talento pianoforte italiano, Giovanni Guidi, classe 85, che ormai si è fatto ampiamente conoscere ed apprezzare sia come band leader ma anche come esecutore in formazione altrui. Qui lo troviamo in trio, Giovanni Guidi dunque al pianoforte, Thomas Morgan al basso, contrabbasso e João Lobo alla batteria, in questa etichetta ECM, la City of Broken Dreams, la città dei sogni spezzati. È un disco fatto di chiaroscuri, molto impressionistico, in qualche modo un passaggio per Guidi in un talento ancora in evoluzione. Quindi dallo stesso Giovanni abbiamo saputo come si è arrivati a questa produzione ECM. Questo disco nasce innanzitutto da una proposta che mi ha fatto Manfred Eicher, il produttore della ECM, quando ho registrato il disco che ho fatto con Enrico Rava, intitolato Tribe, sempre prodotto da lui, mi ha proposto di fare una cosa mia, possibilmente in trio. Ho subito pensato ai miei due partner, che sono João Lobo e Thomas Morgan, e poi ho cominciato a scrivere la musica. E sì, come dicevi te, probabilmente ha assunto anche questi toni un po' impressionismo, anche però con molti riferimenti a quello che è stata la storia di questa etichetta importantissima nel mondo del jazz, che appunto è l'ECM, ma spero, almeno pur mettendoci parte del mio background o di quel poco che insomma avevo costruito in questi anni. Tu sei un ragazzo giovane, sei dell'85, però hai una carriera già molto intensa, ma cosa significa approdare poi la prestigiosissima ECM? Beh, per me è una cosa importantissima, ma va presa ovviamente come un punto di partenza e non come un traguardo, perché poi dopo di cose se ne possono fare altre, così come non potevo fare cose belle anche prima in altri contesti. Ogni esperienza, come nella vita, quindi anche nella musica, è diversa e va presa con la massima serietà, con il massimo rispetto e anche dandogli l'importanza che realmente ha, in questo caso ce l'ha, ma senza neanche via. Ecco, io ho avuto occasione di ascoltare una tua performance al Saalfelden Festival l'anno scorso ed era un contesto molto diverso, in quintetto, una musica differente. Allora, ma qual è il vero Guidi? A me piace fare tantissime cose, ad esempio il duo con Gianluca Petrella, il quintetto che ho visto a Saalfelden, questo trio, il duo con Enrico Rava, suonare nei gruppi Enrico Rava, tutto questo qua è il vero Giovanni Guidi, unendo tutte le cose insieme. Thank you. Ma avere Giovanni Guidi, un giovane ma riconosciuto talento del jazz italiano, è anche un'occasione per fare il punto sulla nostra scena nazionale. Come siamo messi e quali sono le opportunità per chi vuole emergere nel nostro paese? Cioè, da un lato si sta parlando tanto ancora del jazz italiano, delle nuove cose, sì. Io credo che ci siano, e che ne siano tante, ma non credo che siano quelle di cui poi si parla. Effettivamente penso ci siano grandissime realtà anche di ricerca, di sperimentazione, anche di quelle persone che provano lentamente a portare il linguaggio un po' più avanti di quello che era prima, ma che poi non sono quelle di cui si parla quando si parla dei giovani leoni del jazz italiano, ecco. C'è una certa differenza tra quello che appare e quello che è, tu dici? Secondo me sì. E quindi la scena italiana è anche più interessante di quello forse. La scena interessante è molto più interessante come viene rappresentata. Premessa che poi io sono uno di quelli, no, che viene rappresentati come una delle nuove, no? Sì. Perché ovviamente è così anche con questo disco, però c'è tantissimo altro che non si conosce. Io conosco perché sia perché parlo di amici, sia perché a Foligno faccio la direzione artistica di questo festival che si occupa di giovani, c'è tantissimo altro che spesso non è quello che si trova. Sì, diciamo che tu sei una persona molto informata dei fatti, anche dalla tua esperienza. Sì, e essendo anch'io uno di quelli, no, che magari si suona di più, sta in certi contesti, eccetera, devo dire che poi ce ne sono tanti altri che magari sono meno esposti, ma che fanno cose molto interessanti e che meriterebbero più esposizione. Permettimi anche un'ultima domanda, più diciamo organizzativa, ma che penso abbia delle ricadute pesanti e significative sulla vita e la creatività dei musicisti. In questo momento di spending review, le possibilità di suonare festival, com'è la nostra situazione rispetto magari anche a quella dei paesi a noi vicini? Guarda, ripeto, sono in una posizione fortunata suonando con Enrico Dava, con Gianluca Petrella, avendo fatto in modo anche piano piano di costruire, no, il mio percorso, però penso che la situazione in Italia altrimenti sia abbastanza tragica, abbastanza triste più che altro. Devo dire pure che con Enrico Dava stiamo suonando principalmente, prevalentemente all'estero, ad esempio, e anche come pubblico, come persone con cui ci si trova a rapportare, come tante cose. Devo dire purtroppo, con un pizzico d'amarezza, che è molto più divertente andare all'estero che suonare in Italia, ora come ora. Thank you. E col disco di Giovanni Guidi, City of Broken Dreams, noi chiudiamo questa trilogia, tre nuove produzioni, tre voci che abbiamo sentito anche nelle interviste, dal blues al jazz fino al pianoforte di Guidi. E come sempre, salutandovi, ricordiamo che tutte le notizie sulla trasmissione e anche la possibilità di riascoltare la trasmissione medesima sta nel nostro sito, nella sezione musica. Ciao a tutti!